Questo giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. L'ONU dice osservatori scioccati dagli abusi in Libia, il patto per frenare i flussi è disumano. Chiedo scusa agli italiani, dice il CT della Nazionale Ventura, il ministro Lotti, il calcio va rifondato. Accusato di estorsione da alcuni dipendenti, arrestato il primo dei non eletti 5 Stelle in Sicilia. Default per parte del debito venezuelano, dice Standard & Poor's, dopo il mancato pagamento di 200 milioni. Un bambino su 8 in Italia in povertà assoluta, secondo Save the Children. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video, così come andiamo in diretta video dalla pagina Facebook di Radio 24. Dall'altra parte del vetro oggi Laura Faggini in assistenza in redazione, Paolo Corleoni in regia. Iniziamo dunque e iniziamo da quello che dice l'ONU sui campi migranti in Libia. Il patto dell'Europa con la Libia è disumano. A denunciarlo sono le Nazioni Unite, che puntano il dito anche verso la politica europea di assistenza alle autorità libiche nell'intercettare i migranti nel Mediterraneo. La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza dell'umanità e gli osservatori dell'ONU sono rimasti scioccati da ciò che hanno visto. Così si legge un comunicato diffuso a Ginevra dall'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, Zeid Raad al-Hussein. Torture, violenze e umiliazioni che sono anche oggetto di un'inchiesta a Palermo. 7 migranti sopravvissuti alla tortura nel centro di Saba hanno riconosciuto in un centro di accoglienza in Italia 2 dei loro carcerieri in Libia e li hanno denunciati. Il processo inizierà a dicembre, come conferma ai nostri microfoni il procuratore aggiunto Marzia Sabella, il magistrato conosciuto per aver catturato Provenzano. Noi abbiamo un mare di materiale, abbiamo delle varie testimonianze, chiaramente ci fondiamo anche sulle testimonianze dei vari migranti. Appena avremo il processo a dicembre, depositeremo gli atti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di migrazione torneremo a parlare più avanti nel nostro giro d'Italia. Come sapete, spesso ci siamo fermati a Cona in Veneto, dove c'è questa ex base militare nella quale sono ammassate centinaia di persone, situazione che continua a non migliorare. Ci sono state proteste da parte dei migranti sia questa mattina che ieri mattina. Dunque torneremo a parlare di migrazione più avanti, intanto andiamo a questo evento che è un unicum negli ultimi 60 anni, però non sappiamo se essere contenti, anzi probabilmente no. Carlo Genta, parliamo ovviamente della nazionale. È un po' difficile esserlo, Simone. È un po' difficile esserlo perché... Comunque abbiamo vissuto un momento storico, per così dire. Per carità, anche l'11 settembre abbiamo vissuto un momento storico, o in altre occasioni, ci è capitato negli ultimi anni. Momento storico, momento sportivamente tragico, drammatico, non c'è la musica di Apocalypse Now, visto che l'Apocalisse è stato più volte evocato come il simbolo di una probabile eliminazione che ieri sera è diventata certa. È chiaro che alla fine di una generazione di giocatori che ci ha portato anche un titolo mondiale, era l'ultimo ballo per molti di essi che hanno annunciato ieri sera l'addio alla nazionale, ma è evidente per ragioni anagrafiche, da Buffon a De Rossi ha comunque tutta una difesa che è stata tra le più forti del mondo. È una squadra da rifondare, da ricostruire dalle basi. Ci troviamo di fronte appunto alle macerie del calcio italiano e adesso sì, non a caso lo stesso ministro Lotti poco fa ha detto esattamente questo, cioè il calcio italiano va rifondato. Sì, rifondato, bisogna capire anche come, perché oggi è facile dire rifondato, però per fare le rifondazioni bisogna capire anche con chi e in che modo. Adesso tutti si sono presi una sorta di pausa di riflessione, è evidente che Ventura non sarà più il commissario tecnico della nostra nazionale. Mi sarebbe piaciuto il gesto che fece Prandelli quando venne a casa dei mondiali, cioè davanti ai microfoni dopo la partita dell'eliminazione dell'Italia, disse mi dimetto, faccio un passo indietro, perché quando arrivi a un fallimento di questo tipo non ci sono alternative, ovviamente, al di là dei contratti e delle clausole. Poi Simone, non andiamo ai mondiali, però le ultime due volte che ci siamo stati non è che si siano fatte delle gran figure, visto che in entrambi i casi le ultime due competizioni, sia in Sudafrica che in Brasile, siamo tornati a casa al primo giro, e quindi già segnali c'erano. Poi c'è stato un europeo illusorio, anzi un paio, prima con Prandelli, con una finale persa con la Spagna, e poi con Conte, con un buon quarto di finale, la Spagna battuta, eccetera. Però è chiaro che questa generazione di giocatori è finita, adesso ci sono molte incertezze sul futuro, anche perché si tratta di capire se la nuova generazione vale quella precedente. Tutto questo anche per dirvi che Carlo Genta lo ritroveremo alle 14, in realtà per una puntata speciale di tutti, sì, i convocati, no? Che durerà 2 ore, caro, dove potrete dare sfogo al vostro essere CT della nazionale, come è tipico di tutti gli italiani, dove gli ascoltatori potranno dare sfogo al loro essere, certo, CT. Li aspettiamo tutti, abbiamo 2 ore di spazio, di tempo, proprio per, insomma, facci compagnia tutti insieme per provare a risollevarci, mollare, per discutere di quanto è successo. Grazie Carlo, ci risentiamo alle 14, veniamo all'economia italiana e ai dati sul prodotto interno lordo. Continua la risalita del PIL italiano, 0,5 punto percentuale in più nel terzo trimestre dell'anno e più 1,8 su base annua ai massimi dal 2011 e superiore alle previsioni dello stesso governo che si attestavano a un più 1,5. I dati sono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. In ogni caso una cosa è certa, la ripresa dell'Italia accelera, 13 trimestri consecutivi, rileva l'Istat, tutti con il segno più, una crescita uguale a quella della Francia, superiore a quella della Gran Bretagna, anche se ancora lontana dalla media dei paesi dell'Eurozona che crescono del 2,5, con la Germania al 2,8. Già centrate comunque le stime del governo contenute nella nota di aggiornamento al DEF, e la strada per la definizione della manovra appare più in discesa. Soddisfatto il premier Gentiloni, un risultato, dice, che ora non bisogna dilapidare. Se la nostra crescita tendenziale parla di 1,8, quando le previsioni soltanto 5 mesi fa erano dello 0,8%. Siamo campioni mondiali di salto in alto da questo punto di vista. Se di questo parlano le previsioni oggi, questo è perché il sistema italiano si è messo in moto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto sul fronte delle pensioni arrivano le dichiarazioni l'ordine del giorno votato dal direttivo della CGIL, la quale dice che le risposte del governo sulle pensioni sono del tutto insufficienti e qualora il confronto non determini avanzamenti, il comitato direttivo dà il mandato alla segreteria di decidere tutte le iniziative di mobilitazione, quindi evidentemente la possibilità anche di uno sciopero. Veniamo alla Sicilia e alla politica, perché è stato arrestato il primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle. Estorsione nei confronti di almeno 2 dei suoi dipendenti. Con questa accusa è finito agli arresti domiciliari l'imprenditore Fabrizio Lagaipa, 42 anni, agrigentino, in corsa alle ultime elezioni regionali con il Movimento 5 Stelle e primo dei non eletti con i suoi 4.357 voti che non gli hanno consentito di entrare all'Assemblea regionale siciliana. L'inchiesta della Procura di Agrigento, condotta dal sostituto Carlo Cinque, coordinato dal procuratore Luigi Patronaggio, è partita grazie agli esposti di 6 dipendenti dell'hotel Costa Azzurra Museum e Spa, albergo atelier sul litorale di San Leone d'Agrigento che lui avrebbe gestito. Con Fabrizio Lagaipa risulta indagato nella stessa inchiesta anche il fratello Salvatore, per il quale i magistrati hanno disposto il divieto di dimora in città. L'indagato, giornalista pubblicista e autore di libri, è stato presidente del consorzio turistico Valle dei Templi, carica da cui si è dimesso per correre con i grillini all'ARS. Lagaipa è arrivato terzo, superato da Matteo Angiacavallo, deputato uscente ricandidato che ha ottenuto 14.973 voti e Giovanni Di Caro, eletto con 5.987 voti. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Agrigento. Il dopo Sicilia continua ad infiammare il centro-sinistra, l'analisi di Daniele Biacchessi. Alla direzione del Partito Democratico Matteo Renzi apre all'alleanza con la sinistra per le prossime elezioni politiche di primavera, ma riceve il primo secco no da Pierluigi Bersani di MDP. Il PD pare dunque destinato a correre da solo mentre a sinistra, le offerte sono molteplici ma nessuna prevalente. Di certo il Presidente del Senato Pietro Grasso potrebbe guidare una lista ampia sostenuta da MDP, Sinistra Italiana e Possibile. Il professor Tommaso Montanari e Anna Falcone erano in procinto di chiudere un percorso civico e unitario, ma hanno annullato l'appuntamento romano di sabato perché non vi era un accordo tra le forze politiche e sociali. Non è dato sapere al momento se questo movimento, insieme a Rifondazione, si presenterà con una lista autonoma. Intanto Giuliano Pisapia tiene ancora aperto un timido dialogo con il PD, ma senza accordi, senza progetti politici di ampio respiro, ognuno corre per la propria strada, irta di ostacoli, totalmente in salita. Così dunque l'analisi di Daniele Biacchesi a proposito di politica e di elezioni. Come sapete, si svolgerà nel fine settimana il ballottaggio per l'elezione del presidente di municipio di Ostia, il minisindaco di Ostia per così dire. Il ministro dell'interno Marco Minniti, durante il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza proprio su Ostia, ha detto che ci sarà una vigilanza discreta nei seggi elettorali, una vigilanza che dovrà rispettare il libero percorso dell'elettore nella sua decisione, queste le parole di Minniti, e controllare che non ci siano condizionamenti. Lo ricorderete, Ostia era stata commissariata, il municipio elettorale romano era stato commissariato e sciolto per infiltrazioni mafiose. Veniamo all'estero, al Venezuela, che è in default su 200 milioni di debito. Il Venezuela è caduto in default ed è un fatto sorprendente sia per l'esiguità dell'importo sia per i pagamenti onorati ben più consistenti effettuati nelle scorse settimane. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha annunciato default selettivo per il mancato rimborso di 200 milioni di dollari di bond. A chi giova un default del Venezuela? A nessuno, secondo gli analisti. Vi saranno conseguenze negative per tutti. Il Venezuela, già sfibrato da una politica economica che ha prodotto un'inflazione del 700% e un crollo del PIL drammatico, ora potrebbe essere ulteriormente penalizzato per gli embarghi che scattano per chi cade in default. E quindi le petroliere non potranno consegnare il petrolio nei porti di destinazione. Gli Stati Uniti, per parte loro, potrebbero patire l'embargo del Venezuela, dato che il paese latinoamericano rappresenta un importante paese importatore di greggio. Il Venezuela, va ricordato, produce circa 2,3 milioni di barili al giorno di petrolio, di cui un terzo viene esportato negli Stati Uniti. Insomma, un inspiegabile gioco a somma negativa che penalizza tutti, soprattutto i venezuelani, ormai con problemi di approvvigionamento alimentare. Roberto Darin, Radio 24, Sole 24 Ore. Cresce il numero di bambini in povertà assoluta, 1 su 8, circa 1.300.000, oltre il 12% del totale, secondo Save the Children, secondo la quale la diseguaglianza sociale condiziona il rendimento scolastico. Quest'anno il focus è proprio sulla scuola. Raffaella Milano è direttrice programmi Italia-Europa di Save the Children, al microfono di Valeria De Rosa. In Italia sono quasi 1.300.000. E questo dato non fa abbastanza scandalo, invece è un dato che ha delle conseguenze drammatiche per i bambini oggi, ma anche per il futuro del nostro paese. La scuola dovrebbe riequilibrare le distanze e le diseguaglianze socio-economiche che vivono i bambini, e però non riesce a riequilibrarle. Quindi la scuola purtroppo oggi è uno specchio delle diseguaglianze sociali. Lo si vede dal numero delle bocciature, lo si vede dal numero di ragazzi dispersi, e lo si vede quando mettiamo a confronto questi dati con la condizione socio-economica delle famiglie. I dispersi e i bocciati sono i bambini che vengono dalle famiglie che vivono le maggiori difficoltà economiche. E infatti voi puntate anche molto sul concetto di povertà educativa. La povertà educativa, i ragazzi non vengono messi a contatto con esperienze educative importanti come quelle per esempio di leggere dei libri oltre a quelli scolastici, di visitare un museo. Più del 70% dei ragazzi non ha mai visitato un sito archeologico. Non ha queste esperienze educative che al di là della scuola fanno parte di un percorso di crescita che dovrebbe essere garantito ad ogni bambino. Soggetti esterni dalla scuola devono sentirsi responsabili della crescita dei bambini e dei ragazzi, altrimenti la scuola e le famiglie da soli non possono riuscire ad affrontare una sfida di queste dimensioni in questo momento così forte di cambiamento. Lunedì verrà annunciato quale sarà la sede dell'EMA, l'Agenzia Europea per il Farmaco, alla quale aspira Milano. Di questo ha parlato stamattina il Presidente della Repubblica Mattarella, in visita proprio nel capoluogo lombardo. Livia Zancanera sta seguendo questa visita, e non solo quella naturalmente. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, questa mattina, come dicevi tu, c'è stata l'inaugurazione del campus dell'Università di Humanitas a Rozzano. Presenti il presidente Mattarella, Maroni, presidente della Regione Lombardia, il sindaco di Milano Sala, oltre al ministro Calenda, la sottosegretaria Boschi e il presidente di Humanitas Rocca. Al centro degli interventi l'eccellenza nelle scienze mediche, nella ricerca dell'Italia, ma soprattutto della Lombardia di Milano, e quindi, come dicevi, la candidatura di Milano a ospitare la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco, che ricordiamo lascia Londra dopo la Brexit. Ottimista il capo dello Stato, che auspica un successo pieno. Sentiamo. È stato un impegno comune e convergente per quanto riguarda l'obiettivo dell'EMA a Milano. Milano ha già ottenuto un successo con il riconoscimento di idoneità di alto livello. Noi confidiamo e speriamo che il successo sia pieno. E dice auspico un successo pieno a fronte quindi dell'impegno comune delle istituzioni. Stessa considerazione quella di Maroni, che dice manca poco alla meta, speriamo di tagliare il traguardo, abbiamo fatto un lavoro di squadra. Per il sindaco di Milano Sala è stato fatto un duro lavoro, se vinciamo sarà merito di tutti, se non vinciamo nessuno criticherà. Ricordiamo la decisione arriverà lunedì prossimo ed è tutto. Grazie a Livia Zancaner per questo aggiornamento. Un'ultima notizia prima di chiudere: la Warner Bros. Ha deciso di confermare l'uscita il 14 dicembre di Poveri ma ricchissimi, film di Natale, dato che questo film è il risultato della creatività, del lavoro, della dedizione di centinaia di donne e di uomini di casa e di produzione, ma ha sospeso ogni futura collaborazione con Fausto Brizzi, il regista accusato appunto di una serie di abusi e di molestie dalle attrici che, ve lo abbiamo raccontato ieri, hanno parlato con la trasmissione Le Iene. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro Giro d'Italia, Giro d'Italia che ci porterà parecchio a parlare di immigrazione tra Cona e il Brennero. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle Nazioni Unite che accusano l'Europa, in particolare l'Italia, per gli accordi con la Libia e per le violenze che sono state viste nei campi. Abbiamo parlato della nazionale, delle accuse di estorsione che hanno portato all'arresto di un esponente del Movimento 5 Stelle in Sicilia, del Venezuela che è andato in default per una parte del debito e infine anche del rapporto di Save the Children sulla povertà dei bambini. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia, ma non prima di aver dato un paio di risposte ad ascoltatori che ci fanno notare alcune cose, a partire dall'ascoltatore che dice in merito al servizio della nostra collega Valentina Furlanetto che Provenzano è stato catturato da Alfonso Sabella, non da Marzia Sabella. No, in realtà è in errore l'ascoltatore, Provenzano è stato catturato esattamente dalla PM Marzia Sabella, i due poi tra l'altro sono fratelli e tutti e due magistrati, credo, se non sbaglio, però insomma questo conta poco ai fini della notizia in se stessa. All'ascoltatrice Paola che ci scrive che l'Europa non ha molti titoli per fare predica all'Italia sui migranti, abbiamo di fatto già risposto perché in realtà ha sentito male, si tratta delle Nazioni Unite e non dell'Europa. Mentre invece abbiamo il solito nel senso uno dei tanti ascoltatori del Movimento 5 Stelle che si lamenta quando diamo notizie che riguardano l'arresto di un esponente o un'indagine che riguarda un esponente del Movimento 5 Stelle. Scusate, ma questa cosa è insopportabile, fatemelo dire, perché in tutta sincerità, dato che passiamo vi lamentate sempre quando non diamo notizia dell'indagine perché un assessore del comune di 2000 abitanti del Partito Democratico si è dimenticato di chiedere lo scontrino al bar e ci rompete le scatole perché non diamo quella notizia, non potete lamentarvi se poi diamo anche la notizia dell'arresto di un esponente del Movimento 5 Stelle, tra l'altro per un reato come estorsione. I pesi e le misure sono gli stessi per tutti da questi microfoni, per il Movimento 5 Stelle, per il Partito Democratico, per Forza Italia, per la Lega, per tutti, e quindi le notizie sulle indagini che riguardano gli esponenti del Movimento 5 Stelle sono notizie pari alle altre e meritano un titolo come le altre. Veniamo al nostro Giro d'Italia, che ci porta innanzitutto in Veneto, un luogo che ormai conosciamo bene e che gli ascoltatori di Effetto Giorno conoscono bene perché l'abbiamo raccontato tantissime volte. Anche troppe a dire il vero, soprattutto per la condizione nella quale continua ad essere. E parliamo di Cona, dove nella ex base militare sono ammassati. Una volta il sindaco usò un'espressione che qualche ascoltatore criticò perché sembrava che si parlasse di cose invece di invece che di persone, però è un'espressione molto efficace esattamente per questo, per come vengono trattate queste persone. Sono, disse, sono accatastate centinaia di persone, esattamente quello che succede. È un centro per migranti che però non è un centro per migranti, non si capisce bene quale ufficialità abbia questa collocazione. E in questo centro di Cona, dove ci fu la rivolta in gennaio e lo ricorderete tutti quanti l'anno scorso, continuano le proteste in queste ore perché le persone continuano ad essere, e scusate l'espressione, accatastate, e tra l'altro per motivi di sicurezza gli sono state pure tolte le stufette. Alberto Panfilio, sindaco di Cona, torna da noi, buongiorno e bentornato, anche se prima o poi ci troveremo a parlare del momento nel quale svuoteranno il centro di Cona, spero, sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Lei ha una visione troppo ottimistica per due ragioni. La prima, perché non possiamo solo dire che sono accatastati, ma sono accatastati in una tendopoli e ci sembra di essere in Libano o in Giordania, invece siamo in centro Europa. Una tendopoli è questa la risposta rispetto a un progetto che dovrebbe essere ben diverso. La seconda visione ottimistica è che qualcuno stia pensando a chiudere questa vergogna. Le dico di no, perché l'ultimo sopralluogo di una commissione ministeriale di poco tempo fa ha detto che in questa tendopoli si rileva un deciso e consistente miglioramento delle condizioni di vivibilità. Allora io prenderei questi signori qua e li farei restare dentro le tende 2 anni e mezzo, oppure li farei vivere come i miei cittadini che sono distrutti psicologicamente, non perché ricevano delle pressioni da parte di singoli richiedenti asilo, ma perché ovviamente sono 190 persone che sono state dimenticate dallo Stato, da Dio e da tutte le forze politiche d'Italia. Quanti sono adesso dentro al centro? Dentro il centro questa... L'ultima comunicazione di qualche settimana fa, 1129. 1129 persone. Più o meno sono sempre le stesse dimensioni, più o meno, perché noi continuiamo a raccontare questa cosa. Sono ridotte, ma è il concetto del magazzino. Qui non diciamo magazzino perché si tratta di elettrodomestici. Sono uomini, è proprio questo che è la cosa più vergognosa, perché quel meccanismo del magazzino, a parte che gli elettrodomestici li mettono sotto i muri e i tetti, questi signori qua li hanno messo sotto le tende. Ecco, dunque è il concetto di magazzino che replico ancora: è vergognoso rispondere a un problema così serio con meccanismi di inciviltà e dire che va tutto bene. E quindi l'ultima visita ufficiale è questa di questa commissione ministeriale, sindaco, in sostanza. Certo, ad ottobre. Ad ottobre l'ultima. È venuta a dirci che va tutto bene, anzi va molto meglio. Non a caso, mi permetta, sindaco, esattamente 2 giorni fa cosa è successo? Che per ragioni di sicurezza hanno dovuto togliere le stufette, e di qui la nuova protesta delle persone che si trovano all'interno del centro. E quindi non va tutto bene, palesemente, se per motivi di sicurezza devi togliere le stufette, no? Sì, ma anche sull'alleggerimento mi viene a sorridere. Cosa succede? La cooperativa che è proprietaria dei tendoni dove vengono accatastate questi esseri umani ne continua a costruire e ce n'è sempre uno di vuoto, fatalità, no? È come dire, signori venghino, che qui in mezzo alla campagna c'è posto per nascondere la vergogna. No, siamo un paese, spero, un po' più civile di quello che sta succedendo in Libia, se lo dimostrino. Tra l'altro Francesco mi segnala che anche a Milano in via Corelli ci sono le tende. Diciamo che la situazione di Cona è un po' più particolare, proprio perché abbiamo visto che c'è stata la rivolta in gennaio, abbiamo visto tante promesse su questa storia di Cona. Sindaco, l'ha vista anche lei, le ha sentite con le sue orecchie. Con le mie orecchie ho parlato con i due ministri, Alfano prima e Minniti dopo, ma guardi, io sono ancora in attesa del verbale della commissione un'inchiesta parlamentare che un anno fa ha decretato che quel posto lì doveva essere chiuso. Io sto ancora aspettando copie quel verbale. C'è assolutamente un clima di omertà. Un clima di omertà, ci dice il sindaco di Cona. Sindaco, io la ringrazio, abbiamo raccolto anche oggi questa sua testimonianza. Io spero in tutta sincerità e prima o poi raccoglieremo la testimonianza di un momento nel quale il centro di Cona in qualche modo verrà svuotata e verrà allentata la pressione su questo territorio e verranno concesse, detta francamente, che poi anche questo è il punto, delle condizioni umane a queste persone che comunque sono sul nostro territorio. Siate d'accordo o no sul fatto che ci debbano rimanere o non ci debbano rimanere, non è questo il punto, è il punto che sono persone che sono sul nostro territorio e questo è. Noi torneremo a parlare di immigrazione tra l'altro più tardi perché c'è una storia che arriva dal Brennero, forse l'avrete vista sui giornali, di questo bambino di 5, tra i 5 e 6 anni che è stato trovato semi assiderato nel tentativo di passaggio al Brennero e cercheremo di fare il punto anche su quel lato, ma lo faremo tra poco dopo la borsa. La questione, voglio tornare brevemente un attimo al tema 5 Stelle non 5 Stelle, qualche ascoltatore continua a dire non ascolterò più la vostra trasmissione, siete servi del Partito Democratico, ma dove li vedete i servi del Partito Democratico? E ancora un altro ascoltatore in merito alle notizie, non ricordate il fatto, si vede che siete del PD, al fatto non ricordate che Brizzi è stato il regista della Leopolda, ragazzi, ma francamente se volete lo dico che Brizzi è stato il regista della Leopolda, lo apprendo da lei perché in tutta sincerità non lo sapevo nemmeno. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e poi andremo al Brennero e torneremo a parlare di Nazionale perché ci collegheremo con il nostro Andrea Viali che si trova in un convegno nel quale viene presentato il nuovo stadio dell'Atalanta al quale sono presenti sia Malagò che Lotti e vedremo che cosa è emerso anche sulla sorte del CT della Nazionale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. L'ONU, osservatori scioccati dagli abusi in Libia nei campi di detenzione dei migranti. Il patto per frenare i flussi, dicono le Nazioni Unite, è disumano. Chiedo scusa agli italiani, dice il CT della Nazionale Ventura. Secondo il ministro Lotti il calcio va rifondato. Dichiarazioni di pochi istanti fa di Malagò che ringrazia Buffon per averci messo la faccia. Accusato di estorsione da alcuni dipendenti, arrestato il primo dei non eletti 5 Stelle in Sicilia. Default per parte del debito veneziano, dice Standard & Poor's, dopo il mancato pagamento di 200 milioni. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, grazie all'ascoltatore o ascoltatrice che dice voto 5 Stelle, continuerò ad ascoltarvi, fate benissimo ad evidenziare qualsiasi reato perpetrato da qualsiasi politico, in questo caso questo mi dà anche l'occasione per dire un'altra cosa, ovvio, occhio che un arresto non è una condanna, un arresto è un'accusa da parte di un magistrato che poi andrà provata in eventuale giudizio che non è detto che... nemmeno ci sia, perché poi c'è un magistrato che può decidere che il processo si fa o non si fa. Quindi massimo garantismo per i 5 Stelle, così come per il PD, per tutti gli altri, insomma, eccoci. Dunque, torniamo a che cosa? Torniamo all'immigrazione. Non abbiamo ancora pronto il nostro Andrea Viali dal CONI per farci raccontare un po' di cose sulle dichiarazioni che stanno emergendo dopo quella che è stata definita, forse un po' pomposamente, una tragedia nazionale, ossia l'Italia che non si qualifica ai mondiali. Ci sono però tragedie vere, ci sono tragedie come quelle che portano un bambino di 5 anni a nascondersi in un camion diretto da Verona verso l'Austria per cercare di passare il confine e rischiare la morte per assideramento. Un bambino di origine africana di nome Anthony, a quanto pare. Siamo in linea con Giuseppe Tricarico, che è dirigente della squadra mobile di Bolzano. Buongiorno Tricarico, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Sì, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora Tricarico, innanzitutto come sta Anthony? Sì, allora Anthony adesso sta meglio e ieri era stato ricoverato in un ospedale della provincia in evidente stato di ipotermia. Era stato trovato dai poliziotti della Polizia Ferroviaria di Brennero, appunto sotto un camion su un treno merci diretto in Austria. E purtroppo non abbiamo ancora trovato i genitori, per questo già ieri sera abbiamo diramato un appello a chiunque conoscesse Anthony, 5 anni, della Sierra Leone, o il suo nucleo familiare, comunque di contattare la questura. Quindi siete riusciti ad accertare che è della Sierra Leone, Anthony? Abbiamo, ce l'ha, sì. Cioè la Polfer, immagino l'abbia fatto. Sì, no? Sì, esatto. Ha detto mi chiamo Anthony e vengo dalla Sierra Leone. Sì. Ci dà un quadro, Tricarico, e lei probabilmente ha la situazione operativa sotto mano, di com'è la situazione al confine, perché insomma ogni tanto noi ci torniamo sui nostri confini per capire come vanno le cose. Immagino che i tentativi di passaggio in Austria si siano ridotti notevolmente negli ultimi mesi, no? Allora, si sono sicuramente ridotti i tentativi di passaggio sui treni passeggeri, però con un'indagine, ad esempio anche con un'indagine che abbiamo concluso ieri, che ha portato all'arresto di due passatori, in realtà sono aumentati, o comunque c'è adesso questo fenomeno, in realtà ormai da circa un anno, dei passaggi sui treni merci. Come funziona? Questo lo ha accertato l'indagine che abbiamo appena chiuso. Questi due soggetti stranieri residenti in Lombardia comunque venivano contattati da stranieri che intendevano raggiungere la Germania e il Nord Europa, attraverso i regionali riuscivano ad arrivare qui in Alto Adige, e attraverso un complicato sistema riuscivano anche a salire sui treni merci, però in condizioni particolarmente rischiose e difficili. E da lì poi cercavano di attraversare la... Sì, avete arrestato due persone, se non sbaglio, no? Esatto. Nell'operazione sì, che avete fatto. Due stranieri residenti a Como, un egiziano di 29 anni e un curdo iracheno di 30, residenti a Como. Lei ha detto è un modo particolare, e lo immagino, perché immagino che non sia facilissimo salire su un treno merci. Allora, considerate soltanto che già da settembre a Brennero di sera si aggiungono temperature al di sotto dello zero termico. E ci sono, appunto, quindi al di là del freddo, alcuni si arrampicano sui teonati per tagliarli e poi entrare nei vagoni, però anche lì rischiando il folgoramento dalla linea elettrica sovrastante. Ci sono anche stati casi in passato di gente che è rimasta schiacciata durante le operazioni di carico e scarico dei camion, perché alcuni merci caricano direttamente il camion e non soltanto il container. Quindi le condizioni e i rischi a cui si espongono questi gli stranieri sono elevatissime, e anche per questo siamo intervenuti subito per bloccare l'attività di questi due stranieri che abbiamo arrestato, che per 150 euro a persona favorivano e accompagnavano fino al confine gli stranieri. Considerate anche che noi nella nostra attività abbiamo soccorso una donna incinta, una donna con un minore di 6 anni e altri minori che poi comunque sono stati soccorsi, e quindi abbiamo impedito che tentassero il viaggio in queste condizioni. Sì, perché adesso arriva il freddo, Tricarico, e deve essere... In realtà Brennero è già arrivato da un po'. Il freddo, e quindi questa operazione diventa veramente pericolosa. Lo è già pericolosa da un punto di vista, no? Per così dire, meccanico, se mi consente di usare questa espressione, come ci ha raccontato. E poi da un punto di vista anche del rischio di assideramento, e il caso di Anthony ne è, no, un caso evidente. Sì, assolutamente sì. Considerate anche che da quando è cominciato questo fenomeno, e quindi da circa un anno, tra Italia e Austria sono già state diverse morti, o per investimenti, o per assideramento, o per gente schiacciata durante operazioni di carico e scarico. Quindi è una modalità rischiosissima. I nostri servizi da questura e da polizia ferroviaria sono volti alla salvaguardia degli stranieri, impedendo loro di mettere a repentaglio la loro stessa vita. Io nel ringraziarla, Giuseppe Tricarico, poi sì, qua c'è un ascoltatore che scrive e dice che fate? Lasciateli andare in Austria, ma il tema è esattamente questo, c'è un tema di salvataggio di vite in questo caso, perché queste persone vivono dei rischi non dissimili dalle persone che attraversano il Mediterraneo, nel senso che prendono, salgono su questi treni rischiando la vita sia per assideramento sia eventualmente per appunto schiacciamento, l'avete sentito, ce l'ha raccontato Tricarico esattamente in questo momento, ce l'hanno raccontato dunque dalla questura di Bolzano. Questo è il quadro della situazione, è quasi un'azione umanitaria a questo punto, non un'azione di contrasto all'immigrazione clandestina, mi sembra di poter dire. La ringrazio, grazie a Giuseppe Tricarico, dirigente della squadra mobile di Bolzano, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Oggi è una giornataccia. Andiamo a sentire il traffico, va. Poi Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.